Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Abbiamo una ricca, ricchissima versione podcast che abbiamo ribattezzato Super Podcast. Trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale, lo trovate online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione, l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia, e poi anche nelle principali piattaforme audio a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le altre. Come sempre iniziamo da alcune notizie della settimana condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Grazie a nuove regole che hanno aperto il mercato dei pagamenti a realtà non finanziarie e grazie alla tecnologia, Enel lancerà da metà ottobre il proprio servizio di pagamento Enel X Pay. Emetterà carte, offrirà un conto corrente digitale che risiede in Intesa San Paolo e permetterà di pagare in primis le bollette, ma ovviamente moltissime altre cose. Anche Iren, che è un'altra società che si occupa del mercato elettrico, ha lanciato qualche settimana fa Iren Pay. Pensate che il solo giro d'affari legato alle bollette in Italia è di 300 milioni di transazioni con una media di commissioni di 1,5 euro, quindi 300 milioni non di euro, ma 300 milioni di transazioni, quindi stiamo parlando di probabilmente miliardi. Se le autorità di regolamentazione approveranno l'operazione, Iliad, la francese Iliad, acquisirà Play, uno degli operatori di telefonia mobile polacchi con 15 milioni di abbonati. Il costo di questa operazione, che è una importante operazione, sarà di 3,5 miliardi di euro. Grazie a questa acquisizione, Iliad diventerebbe il sesto gruppo europeo delle telecomunicazioni. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove c'è una battaglia, ne abbiamo parlato recentemente a 2024, contro gli App Store, quindi contro Google e Apple. Epic Games, Spotify e Deezer sono fra i membri fondatori, probabilmente i più noti, di un'alleanza no profit chiamata Coalition for App Fairness, cioè Coalizione per l'Equità nelle App. È un gruppo di aziende che vuole combattere contro, appunto, Apple e Google per quello che loro definiscono un potere troppo elevato che condiziona il lavoro degli sviluppatori di app. Questa è una battaglia non solo tecnologica, anzi direi non tecnologica, ma ovviamente una battaglia di business, e probabilmente si gioca una parte del futuro della app economy. Vedremo come andrà a finire, ma insomma ci saranno molte puntate. Microsoft ha annunciato l'acquisizione per 7,5 miliardi di dollari di ZeniMax Media, azienda proprietaria di Bethesda Software, uno dei più importanti sviluppatori e publisher di videogiochi al mondo. Un'altra acquisizione che va a riempire ulteriormente, ad arricchire ulteriormente il già ricco menu di publisher che sono stati acquisiti da Microsoft. Ogni tanto segnaliamo alcuni finanziamenti di startup o perché sono interessanti dal punto di vista tecnologico o perché lo sono dal punto di vista strategico nel mondo della tecnologia, oppure che ci segnalano un trend. Allora, in questo caso segnaliamo un finanziamento da 240 milioni di dollari, comunque piuttosto importante, incassato da Nuvia, una startup americana che ha come obiettivo realizzare un chip pensato per i data center con l'obiettivo di risparmiare energia. Sapete che i data center, e in prospettiva lo saranno sempre di più, già oggi sono una fonte di consumo energetico molto importante. Nuvia è stata fondata da tre ex ingegneri di Apple che hanno partecipato per anni allo sviluppo di processori sia per gli iPhone e per gli iPad, quindi insomma esperti della materia. Questa società aveva già ricevuto 53 milioni di dollari di finanziamento. quindi abbiamo già superato, ci siamo avvicinati ai 300 milioni di dollari. La Traton, che è una società del gruppo Volkswagen che si occupa dei mezzi pesanti e gestisce i brand MAN e Scania, quindi si occupa di TIR, ha firmato un accordo con l'americana TuSimple per lo sviluppo di sistemi di guida autonoma. TuSimple è specializzata nei sistemi di guida autonoma per automezzi pesanti. Un'ultima notizia riguarda l'Italia: c'è stata una nuova operazione contro la pirateria online, sono state arrestate 4 persone, oscurati 58 siti web e bloccati 18 canali Telegram. Tra poco parleremo di aeroplani del futuro, di propulsioni alternative a quelle che conosciamo oggi. E adesso invece parliamo di Elon Musk, che è salito sul palco, su un palco allestito nel parcheggio della sede di Tesla in California, per annunciare alcune novità che però non arriveranno sul mercato prima di 2 o 3 anni. Questo ha deluso un po' gli investitori, ma tutte le novità che sono interessanti sempre per discutere, per parlare di trend tecnologici. A proposito, giusto una nota sullo spettacolo che è stato organizzato. Sapete che i californiani durante queste presentazioni pensano anche ad una parte di spettacolo, e l'allestimento è stato fatto in questo parcheggio. Le persone invitate, c'erano anche degli investitori, erano tutti seduti nella propria Tesla, quindi erano tutte Tesla parcheggiate, e invece degli applausi questi strombazzavano con i clacson. Dunque, grazie ad un miglioramento dei processi produttivi e nuovi materiali per le nuove batterie che arriveranno appunto nei prossimi anni, queste avranno un'autonomia doppia rispetto alle attuali, l'incremento del 54%, con costi inferiori al kilowattora fino al 56%. Se tutto ciò venisse confermato, si sfonderebbe quindi la barriera dei $100 per kilowattora, ritenuta quella che definisce la parità di costo fra un'auto elettrica e una combustione interna. Secondo vari analisti, il costo attuale di un pacco batteria di Tesla è di $156 per kilowattora. Quindi di strada da fare ce n'è ancora molta, eh? Secondo Elon Musk, Tesla sarà in grado di produrre un'auto da $25,000, cosa che aveva già detto nell'agosto del 2018, dicendo: fra 2 o 3 anni siamo in grado di fare un'auto da $25,000. Non c'è ancora riuscito, e quindi la strada è ancora complicata. Però un'altra novità molto importante, e che verrà apprezzata molto da chi si occupa di temi ambientali. Tutti dovremmo occuparci di temi ambientali, visto come vanno le cose in questo pianeta, è che le nuove batterie che useranno nuovi materiali e non utilizzeranno più il cobalto, una delle materie più controverse per le condizioni di lavoro nelle miniere. Avrete sicuramente letto articoli, ci hanno scritto anche dei libri famosissimi sulle miniere non solo di cobalto ma anche di coltan, comunque adesso stiamo parlando di cobalto in Africa, e delle condizioni in cui queste materie prime vengono raccolte e ricavate. Oltre a questo, Tesla ha annunciato che ha inventato un nuovo metodo di estrazione del litio, e lo farà, anche questa è un'altra novità interessante, in autonomia. Ha già acquistato i diritti di sfruttamento di un'area del Nevada di circa 40 km quadrati ricca di litio. E a proposito di questo, Elon Musk ha dato un'informazione che mi ha sorpreso, però forse non è sorprendente. Ha detto: con il litio che c'è, il litio è molto diffuso, con il litio che c'è negli Stati Uniti potremmo trasformare tutte le attuali automobili in auto elettriche. Every vehicle in the United States can be converted to electric using only lithium that is available in the United States. Questo nuovo metodo che Tesla ha inventato non utilizza nemmeno una goccia d'acqua. Pensate che per la produzione del litio, per l'estrazione del litio, si utilizza un'enorme quantità di acqua, e questo è uno dei problemi di questa estrazione, e invece questo metodo pare non utilizzi nemmeno una goccia d'acqua. In generale Tesla ha intenzione di ridurre il più possibile la catena di fornitori e di portarsi in casa il più possibile l'approvvigionamento di materia prima, e anche la produzione delle celle per le batterie sarà sempre più autonoma. E questo è un dato interessante, ci sono altre aziende che hanno, una delle più importanti, Apple, che ha cercato di internalizzare un sacco di produzioni, di progettazioni, e Tesla sta facendo un po' questo. E comunque quello delle materie prime, della produzione di celle, è anche un fattore strategico, perché già oggi, ma sempre più nei prossimi anni, ci sarà carenza di materia prima e di batterie. Tra l'altro i fornitori di Tesla dichiarano già oggi di non riuscire a star dietro alle richieste di fornitura. Adesso cambiamo argomento, parliamo di aeroplani. Questa settimana Airbus ha rivelato tre concetti per il primo aeromobile commerciale al mondo ad emissioni zero. Per parlare di questo è con noi Grazia Vittadini, che è il CTO di Airbus, responsabile della ricerca e dello sviluppo tecnologico, grande responsabilità in questa grande azienda. Benvenuta a 2024, grazie di essere con noi. Grazie mille Enrico, un piacere. Dunque, voi avete presentato questo concept, in che cosa consiste la vostra idea di aerei ad emissioni zero? Sì, effettivamente giusto questa settimana ad Airbus abbiamo svelato diversi concetti per il primo aereo ad emissioni zero, utilizzando l'idrogeno come fonte di energia primaria. Crediamo veramente che questi concetti diano un'idea di come potrebbe essere il primo velivolo decarbonizzato a entrare sul mercato entro il 2035. È un passo molto simbolico, perché dà vita veramente alla nostra ambizione di essere il primo produttore mondiale a mettere in servizio un velivolo di questo tipo nel prossimo decennio. Crediamo di essere veramente l'unico attore nell'ecosistema con le giuste credenziali per realizzare questa ambizione, grazie anche a quello che abbiamo sperimentato sinora in progetti ad emissioni zero, come ad esempio Lifan, Lifanix, Vahana, City Airbus. L'obiettivo veramente per noi, per Airbus e per tutti i nostri partner industriali, è quello di sviluppare nei prossimi 5 anni, al di là adesso di questi concetti visioneering, dobbiamo veramente sviluppare le tecnologie che ci consentiranno di lanciare un vero e proprio programma aeronautico a partire dal 2025, veramente pronti per l'entrata in servizio nel 2035. È importante sottolineare, se mi permetti, che non abbiamo aspettato la crisi per parlare di aerei decarbonizzati. La crisi del Covid-19 ha creato una consapevolezza ancora più ampia dei vincoli ambientali e del ruolo critico che l'aviazione svolge nella società. Quando le difficoltà dell'aviazione hanno un impatto sul turismo e su molte attività, tutti si rendono conto improvvisamente che l'aviazione è essenziale per la società, per l'economia, per mantenere le persone in contatto le une con le altre. E la volontà dei giovani di sostenere veramente con forza la decarbonizzazione della nostra industria, siamo sicuri, ci permetterà di accelerare i nostri sforzi. In alcuni settori la decarbonizzazione si raggiunge con l'elettrificazione. Ci sono alcuni produttori di velivoli che stanno progettando, sperimentando, stanno pensando a aeroplani o altri mezzi che volano spinti dall'elettricità, dall'energia elettrica. La vostra idea su questo punto qual è? Non dimentichiamoci che Airbus appunto ha incominciato anni fa a sperimentare velivoli elettrici di piccola scala, il Cricri, l'Ifan, che ha attraversato la Manica elettricamente. Abbiamo pilotato con successo il nostro dimostratore Vahana e svolto un ruolo che non esiterei a definire pionieristico nella maturazione dei concetti eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, per la mobilità aerea urbana. Il nostro CTA Airbus a 4 posti, attualmente sottoposto alla fase di test di volo vicino a Monaco, a Manching, e migliorerà ancora di più la conoscenza del settore nel campo dei velivoli a decollo e atterraggio verticale completamente elettrici a emissioni zero. L'IFANX, il nostro progetto IFANX, ci ha aiutato a saperne di più sulle architetture di propulsione ibrida seriale e su altri mattoni tecnologici, diciamo mattoncini, che sono indispensabili per portarci veramente a un futuro ad emissioni zero. Certo, quando si considerano piattaforme più grandi, beh, il fattore limitativo per ora sono le batterie. Quindi l'energia, la densità energetica delle batterie e il loro peso, il peso è in aviazione sempre un criterio fondamentale per il disegno delle nostre piattaforme. Quindi ci sono delle limitazioni tecniche, noi non siamo produttori di batterie ad Airbus, però ovviamente continuiamo a monitorare attivamente il mercato e quello che succede negli istituti di ricerca a livello mondiale, in modo tale da essere in grado di integrare prontamente qualunque rivoluzione verrà, se si paleserà su questo settore. Quindi, se ben capisco, per gli aerei piccolini benissimo l'energia elettrica, per gli aerei più grandi invece l'idrogeno, proprio per questo problema della densità energetica, perché altrimenti metà aeroplano sarebbe occupato dalle batterie. Esattamente. Esattamente. E questo problema della densità energetica esiste anche per l'idrogeno? L'idrogeno è emerso molto presto come un chiaro punto di svolta perché soddisfa veramente tutte le esigenze. È sicuro, è versatile, è leggero, può essere immagazzinato come gas compresso o liquido e la densità energetica è quasi 3 volte superiore al carburante per aviogetti e non emette emissioni di anidride carbonica, CO2, anche se si è bruciato. I sottoprodotti sono l'acqua ed il vapore, quindi questo fatto da solo consolida veramente la reputazione dell'idrogeno come un entusiasmante percorso tecnologico da intraprendere verso il target di emissioni zero. La cosa interessante è che è molto probabile, a mio avviso, che l'idrogeno sia una soluzione per obiettivi climaticamente neutri, non solo per l'aviazione, ma per diversi settori. Ha veramente per noi il potenziale per contribuire più del 50% alla riduzione dell'impatto del trasporto aereo attraverso non solo aeromobili alimentate ad idrogeno, ma anche attraverso combustibili sintetici. L'idrogeno verde, ovviamente, quindi creato con energia rinnovabile, combinato con l'anidride carbonica, appunto, può essere utilizzato per produrre combustibili sintetici, che quindi potrebbero giocare un ruolo importante, forse più a corto termine, per muoverci verso gli obiettivi di decarbonizzazione totale. Nel settore degli aeroplani, quali trend tecnologici possiamo aspettarci per i prossimi anni? Se noi guardiamo agli ultimi 50 anni, certo, gli aerei di oggi non sono come quelli degli anni 60-70, ma in altri ambiti tecnologici abbiamo visto o cose che proprio non esistevano 50-60 anni fa, oppure una innovazione tecnologica incredibile. Gli aeroplani di oggi, dicevo, non sono sicuramente gli stessi, ma non sono nemmeno così diversi. Quali trend possiamo attenderci per i prossimi anni? Sul nostro cammino verso le emissioni zero è importante sottolineare come non ci sia una sola, unica soluzione valida per tutti i problemi. Si tratta molto spesso nella nostra industria, quindi di una confluenza di diversi sviluppi tecnologici che portano veramente a innovazioni rivoluzionarie. In questo senso, stiamo veramente perseguendo diversi dimostratori di volo, che contiamo di annunciare formalmente nei prossimi mesi, che saranno una parte fondamentale della nostra ambizione, perché contiamo entro il 2025 appunto a prendere decisioni specifiche relative al lancio di tecnologie specifiche e di prodotti annessi e connessi. Non è una tecnologia sola, quindi non si tratta solamente di nuovi concetti propulsivi, puramente ad idrogeno, quindi combustione diretta dell'idrogeno, oppure architetture ibride con pila combustibile. Una volta che hai l'idrogeno a bordo, puoi utilizzare pila combustibile in parallelo alle, diciamo, le soluzioni propulsive. Nuovi materiali, certamente, non dimentichiamo la parte materiale, non dimentichiamo il fatto che si tratta anche di considerare l'aereo nella sua completezza, quello che si chiama life cycle management, giusto? Quindi assicurarsi che l'aereo diventi un prodotto ad emissioni zero lungo tutto il suo percorso, quindi dalle fasi di disegno, di concezione, di produzione, in servizio e poi anche quando si tratterà di smaltire il prodotto una volta finita la sua vita attiva. Quindi i materiali ovviamente giocano un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Vediamo la connettività a bordo dei nostri velivoli anche come uno sviluppo tecnologico sempre più rilevante. L'autonomia. I nostri velivoli sono già oggi automatizzati, ma non ancora autonomi, e stiamo attivamente esplorando le possibilità che ci consentiranno di passare un giorno dai due piloti in cabina ad un pilota soltanto, con l'assistenza di la intelligenza artificiale in cockpit per prendersi carico, diciamo, di tutte quelle attività non connesse alle decisioni e alla strategia di volo. Quindi sicuramente l'autonomia, la connettività, i materiali avanzati con intelligenza artificiale come elemento trasversale, diciamo, non è una tecnologia per sé, ma appunto contribuisce all'accelerazione su diversi fronti tecnologici. E dal punto di vista dell'architettura dei nostri velivoli, abbiamo presentato appunto il 21 settembre tre diversi concetti, dove due sono classici, diciamo, un turbofan per una capacità al di sotto dei 200 passeggeri, diciamo alimentato ad idrogeno come combustibile, con un'autonomia oltre le 2000 miglia nautiche, che a lungo termine si potrebbe utilizzare anche per voli intercontinentali. Invece il design a turboelica con una capacità fino a 100 passeggeri, anche alimentato ad idrogeno, è un'opzione perfetta per i viaggi a corto raggio. E poi abbiamo come terzo concetto veramente un'architettura rivoluzionaria che abbiamo già testato in volo a livello scala, quindi a livello di modello, il corpo con un corpo ad ala mista, definitivamente diverso dalle architetture che vediamo volare oggi, che grazie alla nuova disposizione anche della cabina apre molte opzioni per lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno. Al momento in questa configurazione stiamo esplorando l'idea di serbatoi sotto le ali. Quindi decisamente quando si entra in nuovi concetti propulsivi, siano essi elettrici, ibridi o ad idrogeno, l'architettura pone meno vincoli, diciamo, rispetto a quelli visti nei velivoli a propulsione tradizionale. Bene, grazie per essere stata con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Bene, sono felice di aver ospitato Grazia Vittadini, perché i manager di queste grandi aziende, visti i loro impegni e le loro responsabilità, ma anche la comunicazione sempre molto prudente di queste aziende che hanno un valore strategico per un continente come l'Europa, parlano ovviamente poco con la stampa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso abbiamo una breve pausa, poi parleremo di moda e tecnologia e parleremo anche delle novità che sono state lanciate in settimana da Amazon con non solo il brand Alexa, ma in modo particolare sugli Echo e sugli assistenti virtuali. A tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Anche questa settimana ci sono stati incontri e prosegue il dibattito sull'opportunità di avere una rete unica di telecomunicazioni per raggiungere una copertura capillare in fibra ottica direttamente nelle case degli italiani, negli uffici e nelle aziende. Queste due ultime cose sono molto importanti, oltre che le case degli italiani, le aziende e gli uffici. Questa è un'idea del governo che vorrebbe mettere insieme la rete prevalentemente in rame di Telecom e quella in fibra ottica di Open Fiber. I tre principali interlocutori del governo di Cassa Depositi e Prestiti e di TIM attualmente sono Sky Italia, Vodafone e Wind 3. Sky, che è un operatore televisivo ma ultimamente ha investito decine di milioni di euro per entrare nel mercato della connettività in fibra ottica, e sta diventando un player molto importante. Allora, gli amministratori delegati di queste tre aziende sono stati ricevuti a Roma e hanno ribadito che la società che gestirà la rete dovrà essere un operatore non verticalmente integrato, quindi non deve vendere al dettaglio ma solo all'ingrosso. E pertanto scrivono in una nota agli amministratori delegati di questa società, capace di garantire condizioni di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli operatori. Se questa prospettiva verrà implementata, scrivono, con effettive garanzie di indipendenza dell'infrastruttura, una rete completamente in fibra ottica capillare contribuirebbe alla competitività del sistema paese e porterebbe strumenti di connettività all'avanguardia nelle case di tutti gli italiani. Sicuramente è condivisibile questa posizione, ma non è esattamente quello che ha detto il governo, o meglio, una parte del governo, perché l'abbiamo fatto sentire anche 2024, un ministro dice una cosa, un altro ministro ne dice un'altra. C'è chi, ma secondo anche la lettera di intenti che è stata firmata tra Cassa Depositi e Prestiti e TIM, dice che questa società avrà la maggioranza di TIM con tutto un meccanismo per garantire l'indipendenza, ma non si capisce come questo meccanismo possa essere messo in pratica, e altri invece che dicono questa società, come il ministro Patuanelli ad esempio, questa società dovrà essere a maggioranza pubblica e quindi garantire una neutralità di tutti gli operatori, così come vogliono gli altri operatori alternativi a TIM. Vedremo, molto interessante, torneremo sul tema. Questo fine settimana l'industria della moda a Milano tenta di ripartire con eventi fisici e virtuali, tutti condensati in quella che si chiama White Milano. È un evento appunto fisico e virtuale, una parte online, una parte invece in presenza fisica. La moda è un settore importante per l'Italia, i canali digitali, l'innovazione digitale, tecnologica, potrebbe essere un modo per allargare il business o riguadagnare spazi perduti. Allora, quali sono i principali trend tecnologici? Lo abbiamo chiesto a Giusy Cannone, che guida il Fashion Technology Accelerator. Partiamo da e-commerce e social network, che sono due strumenti già utilizzati, ma che sicuramente bisogna imparare ad utilizzare sempre meglio. Sì, certamente. Abbiamo visto a livello globale un'accelerazione da questo punto di vista, sia quindi in termini di vendite online, sia proprio rispetto al tempo speso sui canali social da parte degli utenti, da YouTube a Instagram a TikTok. E certamente questi due fattori hanno portato i brand a interrogarsi a come poter essere sempre più vicini ai consumatori in un momento di distanziamento sociale, andando a presidiare sempre di più quei luoghi in cui il consumatore risiede, quindi i canali online e i canali social. Sicuramente i brand stanno lavorando per rendere i prodotti presenti sugli e-commerce sempre più fruibili da parte del cliente. E quindi abbiamo visto ad esempio dei casi, Gucci è un esempio molto interessante, che ha creato appunto la possibilità di, attraverso la propria app, di fare questo virtual try-on, cioè dare alla persona la possibilità di visualizzare attraverso una realtà aumentata, in questo caso le scarpe, le sneakers di Gucci indossate virtualmente sul piede del consumatore, ma anche cappelli, orologi, eccetera. Un altro trend che ritengo assolutamente interessante è la relazione tra il mondo moda, anche alto di gamma, e il mondo del gaming. Abbiamo visto in questi mesi diversi esempi di brand che hanno creato delle proprie collezioni all'interno di giochi. Ad esempio abbiamo visto come Valentino, ma anche altri brand, hanno lanciato delle collezioni all'interno di giochi come Animal Crossing, o la stessa Louis Vuitton che ha lanciato la collezione all'interno di un altro gioco che si chiama League of Legends. Quindi questi mondi che anche solo qualche tempo fa sembravano molto lontani, invece oggi si sono intrecciati e stanno dando moltissime soddisfazioni agli stessi brand di moda. Questo serve per vendere? Io metto il mio prodotto nel videogioco e lo vendo attraverso il videogioco, o serve per far conoscere meglio il mio prodotto? Ma ci sono varie motivazioni. Sicuramente la prima è quella di essere presente all'interno di un mondo in cui sono presenti le generazioni più giovani, quindi sicuramente la generazione Z, quindi diventare appealing e cool, se vogliamo, proprio per questo tipo di consumatore che sarà, magari inizia ad essere il consumatore attuale, ma sarà sicuramente il consumatore futuro dei brand. E di certo può rappresentare anche una ulteriore possibilità di vendita, perché questi capi poi vengono venduti, perché ricordiamoci che poi il mondo del lusso deve sempre rappresentare un tema di aspirazione per il consumatore finale. In alcuni casi ci sono state anche delle interrelazioni tra digital e fisico, quindi non solo vado ad inserire all'interno del gioco il capo digitale che viene acquistato per restare nel mondo virtuale del gaming, quindi dei vari digital avatars che il giocatore può creare. Ma poi, ad esempio nel caso di Louis Vuitton, questa collezione è stata anche realizzata a livello fisico e quindi poteva essere acquistata nei vari store, sia online che appunto punti fisici di Louis Vuitton. Il terzo punto, che è ancora forse un'evoluzione rispetto alla creazione di un avatar digitale, è quella di creare dei capi virtuali da, se vogliamo, indossare, cioè che la persona stessa, quindi noi stessi, possiamo indossare. Come facciamo ad indossarli? In realtà, acquistando il capo virtuale, questo ci dà la possibilità di creare una foto o un video con indosso questo capo, che assolutamente non esiste a livello fisico, ma esiste soltanto nel mondo poi dei social. E questo apre uno spunto, secondo me, molto interessante, perché oggi sappiamo che uno dei temi che la moda si trova ad affrontare è il tema della sostenibilità. I vari report ci raccontano che c'è una costante produzione in eccesso rispetto a quelli che poi sono gli acquisti globali, anche se questi continuano ad aumentare, ovviamente anno 2020 a parte. Avere la possibilità di produrre capi virtuali potrebbe dare la possibilità ai clienti quindi di avere una gratificazione istantanea acquistando il capo virtuale, e quindi cercando da un certo punto di vista di ridurre invece quelli che sono i consumi veri e propri, e quindi la produzione costante, costantemente in eccesso di capi fisici. E per quale motivo dovrei acquistare un capo virtuale? Cioè qual è il mio vantaggio? Ma allora sicuramente, ecco, chiaramente ci sarà una soluzione ibrida, quindi non ci vestiremo solo con capi virtuali, anche perché questo insomma non sarebbe possibile. Ma se pensiamo che a volte, soprattutto forse le generazioni più giovani acquistano capi anche solo per poterli mostrare e condividere attraverso i canali social, pensiamo a tutto il mondo anche di chi inizia a voler diventare influencer, il capo virtuale potrebbe rispondere a questo tipo di esigenza. mentre potremmo spostare, diciamo, la necessità di acquistare capi fisici verso capi di maggiore qualità che hanno anche una durata maggiore, quindi abbandonando un po' l'idea del fast fashion e cercando di acquistare capi che possono avere una durata, quindi un'estensione del proprio ciclo di vita. Una domanda sulla prova virtuale degli abiti, perché questo è un trend, se funzionerà, se alla gente piacerà e se sarà facilmente fruibile, potrebbe essere un trend interessante, soprattutto per chi ancora non si fida troppo dell'e-commerce, perché poi teme di dover rispedire con tutte le complicazioni e le scocciature del caso, cioè rispedire indietro il prodotto perché non gli piaceva. La prova virtuale ti dà un'idea di come ti può stare un abito o un accessorio, una scarpa, eccetera, eccetera. Che tipo di offerta c'è oggi? Ma oggi sicuramente è possibile con ci sono diverse aziende tecnologiche, da startup ad aziende già molto più consolidate, che consentono di creare quello che si chiama il digital twins, quindi la replica digitale di un capo fisico. Questo fa sì che nel momento in cui il capo viene posto all'interno di una pagina e-commerce, può essere visto a 360 gradi, quindi dare sicuramente un'idea maggiore rispetto ad una semplice fotografia o magari il capo in due dimensioni. Ad oggi ci sono anche diverse soluzioni che consentono di creare un avatar, in questo caso della persona stessa, per capire anche qual è il fit del capo rispetto alla fisicità della persona che sta acquistando il capo stesso. Quindi uploadando una mia fotografia io potrei vedermi con quell'abito? Stiamo parlando di servizi che già esistono o stiamo ancora parlando di cose a livello sperimentale? Sì, ci sono, sicuramente non abbiamo raggiunto un livello di adozione di massa di questo tipo di tecnologia, mentre la visualizzazione del capo 3D direi che oggi è già piuttosto diffusa ed è già un passo importante per riuscire ad avere un'idea sicuramente maggiore di quello che è il capo che vogliamo acquistare. Tra l'altro poi la tecnologia digitale di creazione di un modello in 3D consente anche alle aziende di moda di avere dei risparmi molto importanti anche proprio da un punto di vista di operazioni, quindi anche solo andare a fotografare tutti i capi fisici per poterli inserire all'interno delle pagine e-commerce va a creare dei costi e dei tempi molto importanti. Quindi avere già il capo in digitale, quindi in formato digitale, consente di rendere molto più efficiente tutti questi tipi di processi. Giovedì Amazon ha presentato, durante un evento in streaming, una serie di nuovi prodotti e anche un servizio che al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. Però partiamo dal servizio, che era l'unico. Allora, si chiama Luna ed è una piattaforma di videogame in streaming che punta ad ospitare tanti canali di tanti editori di videogiochi, un po' come una piattaforma TV che offre più tipologie di abbonamento. E per adesso è stato lanciato negli Stati Uniti con un prezzo, diciamo, di $6, ma è un prezzo d'attacco, e poi vedremo nei prossimi mesi. Oltre a questo, fra i prodotti che ancora non ci sono in Europa, forse spicca, anche perché è molto curioso, il drone di sorveglianza. Fa parte della linea Ring, che è un'azienda di Amazon che fa prodotti per la sicurezza come videocamere, e offre anche abbonamenti di videosorveglianza remota, cioè tu ti abboni a un servizio che con le videocamere di Ring ti garantisce la registrazione, un controllo in remoto, eccetera, eccetera. Allora, questa novità è stata presentata è un drone di sorveglianza con videocamera che decolla quando scatta l'allarme e va a controllare la stanza dove c'è stato quell'allarme oppure c'è stato un rumore. L'idea è quella di non avere nessuna videocamera in casa, e anche per essere più tranquillo per motivi di privacy, e utilizzare questo drone. Io non so se è un'idea che potrà funzionare, comunque è sicuramente un'idea. Potrebbe essere utilizzato anche pilotato da remoto, cioè se tu hai un dubbio dici ma ho lasciato a casa il mazzo di chiavi sulla tavola, mandi il drone a vedere se è lì o no, oppure se ti arriva un allarme, che ne so, un vicino che ti telefona dice qualcosa va storto in casa tua, forse molto americano, non lo so, comunque tanto non arriva per adesso, verrà messo in commercio dal 2021, quindi non è subito in commercio. Poi ci sono le novità che riguardano Alexa, e allora saluto Gianmaria Visconti che è il country manager per l'Italia proprio di Alexa di Amazon. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. Allora partiamo dalle novità che sono state presentate. Che cosa cambia con gli Echo, che sono gli smart speaker che hanno integrato Alexa? Ma abbiamo rinnovato quasi tutto il parco dei dispositivi Echo, che sono i nostri altoparlanti intelligenti. Rapidissimamente direi che le novità principali dal mio punto di vista sono due: proprio il nuovo Echo, che è quello che dà il nome a tutta la famiglia, che ha una nuova forma, diventa una sfera invece del cilindro a cui eravamo abituati, e grazie a questo il comparto audio cambia radicalmente, quindi con un audio direzionale che si adatta alla stanza, quindi molto diverso dalle generazioni precedenti. Penso che piacerà molto ai nostri clienti. L'altra novità che ha stupito di più della presentazione, e a me piace moltissimo, è il nuovo Echo Show 10. Quindi in questo caso parliamo dell'altoparlante intelligente con uno schermo, quindi uno schermo HD da 10 pollici, e la novità è che questo schermo è in grado di ruotare a 360 gradi sulla sua base, in questo modo di rivolgersi sempre a chi sta parlando ad Alexa. Quindi al di là dell'aspetto tecnologico molto affascinante, la cosa veramente utile è che, come noi siamo abituati a parlare ad Alexa da qualunque punto della stanza, non solo la sentiremo bene, ma vedremo bene anche le informazioni che ci propone. E questo, ad esempio, durante una videochiamata è davvero molto utile, quindi ci si può muovere nella cucina, cucinare, sedersi al tavolo, andare al frigorifero e rimanere sempre inquadrati e riuscire a continuare la conversazione al meglio. Quindi praticamente questo sistema ha una videocamera che capisce, che ci riconosce e ci insegue. Sì, in realtà è l'unione di due tecnologie. Da un lato abbiamo 8 microfoni sul dispositivo, come un po' su tutti i nostri dispositivi Echo, e grazie al posizionamento di questi è in grado di capire da dove viene la voce, e quindi una parte del movimento avviene grazie a questa capacità di capire da dove mi stanno parlando. E poi la telecamera è in grado di riconoscere una forma umana, quindi non ha un riconoscimento facciale, non riconosce me individualmente, ma riconosce che c'è una persona nella direzione da cui arriva la voce e quindi la tiene inquadrata. Senti, voi avete introdotto anche un processore. Sembra poco importante, invece anche in prospettiva è molto importante, cioè c'è più intelligenza a bordo di questi strumenti rispetto al solo cloud con il quale ovviamente si interagisce. Sì, è quello che si chiama edge computing, quindi trovare un po' una sintesi fra la potenza del cloud. La potenza del cloud rimane fondamentale, la possibilità di fare calcoli complessi velocemente con un hardware che non è a casa mia, quindi viene aggiornato, mantenuto da qualcun altro al mio posto, e la velocità che solo invece l'elaborazione locale è in grado di dare. Quindi abbiamo sviluppato un acceleratore neurale, noi lo chiamiamo, si chiama AZ1, che è specificamente progettato da noi per svolgere compiti di elaborazione specifici dell'intelligenza artificiale, e questo permette di rendere alcune operazioni molto più veloce e di eseguirle in locale. Quindi ad esempio parlavamo di Echo Show 10 e dell'elaborazione dell'immagine per riconoscere le forme umane, questo avviene tutto in locale, quindi tutto molto più veloce e non ha bisogno di lasciare mai il mio dispositivo l'immagine, ma localmente si riesce a fare tutto. Una delle sfide, uno dei problemi che in alcuni casi i consumatori incontrano quando interagiscono con gli assistenti virtuali in generale, poi ci sono quelli più capaci, più bravi, quelli meno bravi, è la ma del resto è così ovviamente, insomma, perché non sono umani, però è la rigidità in alcuni scambi vocali. Che cosa si sta facendo da questo punto di vista? La nostra visione è quella di avere un'interazione con Alexa che sia davvero quanto più naturale possibile. Questo perché un conto è insegnare alle persone a utilizzare un joystick per giocare a un videogioco, ma non è che possiamo aspettarci che le persone reimparino a parlare per parlare con Alexa, ovviamente. Quindi questo è un problema però molto complesso, è un problema che fino a 10 anni fa sembrava quasi fantascientifico, no? L'idea di poter parlare in modo naturale alla propria casa e veder succedere delle cose. Continuiamo a procedere su questa direzione perché sappiamo che siamo veramente solo agli inizi, siamo solo agli albori. Quindi quello che abbiamo dimostrato ieri è, ad esempio, una tecnologia che permette ad Alexa di entrare in una conversazione fluida fra più persone. Quindi, ad esempio, se fossimo al bar la mattina a parlare di calcio e stessimo commentando fra di noi le partite, potremmo chiedere ad Alexa di unirsi alla conversazione e a quel punto lei capirebbe da diversi segnali, dal tono di voce, da dove viene l'audio, quindi la persona si è orientata verso il dispositivo o meno, quando c'è una richiesta per lei, e quindi non dovrei interrompere la nostra conversazione e dire aspetta un attimo Enrico, Alexa chi ha segnato della Juve, ma nel corso della conversazione dicendo chi ha segnato per la Juve, Alexa capirebbe che è una richiesta a cui lei può rispondere, che probabilmente era lei rivolta, e quindi risponderà. Queste sono alcune delle tecnologie che stiamo sviluppando negli Stati Uniti, ovviamente è un percorso continuo e c'è ancora molto da fare, ma siamo convinti che in pochi anni stiamo riuscendo davvero a fare dei progressi inimmaginabili fino a qualche anno fa. Questo tipo di interazione lo si può fare con tutti gli Echo o solo con il Show che ha anche la parte di videocamera? No, questa interazione sarà per tutti gli Echo. Nel caso di dispositivi con telecamera ci sarà in più il beneficio appunto che la telecamera potrebbe aiutare, come spiegavo prima, a riconoscere se c'è una forma umana che si rivolge verso il dispositivo e quindi l'accuratezza potrebbe essere ancora migliore. Dal punto di vista della interazione, della capacità di comprendere quello che stiamo dicendo, perché a volte noi diamo per quando parliamo con una persona diamo per scontate un sacco di informazioni che sappiamo che quella persona sa già, e quindi magari facciamo dei riferimenti che un computer o una macchina non conosce. Da questo punto di vista, che cosa è stato migliorato? Lì continuiamo a migliorare, è un altro problema molto complesso, tecnicamente si parla di memoria del discorso, cioè ricordarsi di cosa si era parlato in precedenza, no? Ad esempio se noi adesso parlassimo di un film e te ne raccontassi la trama, domani incontrandoti ti direi, ah quel film di cui ti parlavo, e lì c'è dietro la memoria di appunto di tutto il contesto pregresso di come hanno interagito due persone. È una capacità che c'è in Alexa, c'è in alcune specifiche funzionalità, quella in cui è più diciamo visibile, più chiaramente identificabile l'utilità è quando le si fanno domande di carattere generale, quindi io potrei dire che tempo c'è a Torino e poi chiedere com'è il traffico, sottintendendo il traffico com'è a Torino, senza doverlo ripetere. È un problema complesso, lo approcciamo da un punto di vista iterativo, quindi continuiamo a piccoli passi ad aggiungere nelle funzionalità dove vediamo c'è effettivamente una richiesta da parte dei clienti, perché sembra facile ma tutt'altro. Ah no, certo, è molto complicato. Senti, ho visto che c'è il supporto a Zigbee, può sembrare una parola difficile, complicata, in realtà molte cose nella smart home si basano o su Zigbee o su Z-Wave, che sono due tecnologie per connettere gli oggetti della casa. Che cosa significa avere il supporto per Zigbee? Fammi anche degli esempi di quali sono i vantaggi. Sì, guarda, al di là appunto del tecnicismo, che diciamo, gli ascoltatori più tecnici avranno già colto, per tutti gli altri, semplicemente ci sono moltissimi dispositivi compatibili con questa tecnologia, che si chiama Zigbee, è una tecnologia radio, che permette di controllare direttamente dal dispositivo Echo, che integra l'hub Zigbee, la lampadina, la presa intelligente e molti altri dispositivi. Quindi questo cosa vuol dire? Che la lampadina, appena mi arriva a casa, è già in grado di comunicare con il mio dispositivo Echo. Quindi io semplicemente l'avvito, l'accendo e dico al mio dispositivo Echo, trova dispositivi, trova nuovi dispositivi. Ed Echo cercherà se in casa è comparso un dispositivo che non aveva mai visto, con cui non aveva mai dialogato, e si aggancerà, e da quel momento io potrò controllare. Quindi come cliente semplicemente devo avvitare la lampadina, accenderla, chiedere di scoprire i dispositivi e da quel punto la posso controllare. E è un grande vantaggio perché mi evita di dover installare magari appunto dell'hardware aggiuntivo piuttosto che installare applicazioni, fare account, configurazioni complesse. Se dovesse scomparire internet, cosa che magari succede raramente ma può succedere, cosa posso fare? Se dovesse scomparire internet, permetti una battuta, specie in questi tempi abbiamo veramente dei grossi problemi. Ah, non c'è dubbio, però diciamo, se momentaneamente va via internet, io che tipo di interazioni posso fare? Immagino anche che quello che dicevi prima del processore, quindi con edge computing, con elaborazioni più sul device, quindi sullo strumento rispetto a meno in cloud, vada anche in questa direzione. Ma che cosa posso fare concretamente? No, è corretto quello che dici. A parte la battuta, è assolutamente corretto. Allora, il servizio Alexa è un servizio cloud con tutti i benefici che ne derivano. La direzione di cui parlavamo prima, quindi dell'edge computing, avere una parte dell'elaborazione che invece può avvenire localmente, oltre a benefici di velocità, che sono quelli su cui oggi noi ci stiamo concentrando maggiormente, permettono anche teoricamente un controllo locale, quindi alcune richieste magari più base, accendi, spegni la luce, magari poterle elaborare localmente. Ad oggi non è una funzionalità che abbiamo, però la cosa di cui siamo veramente ottimisti, che ci fa guardare con ottimismo al futuro, è che abbiamo l'hardware che ci permetterà di farlo, e questa è una grossa differenza rispetto al passato, dove invece non avendo quell'hardware sarebbe stato molto più difficile realizzarlo. Quindi non è qualcosa che avremo a breve, non è fra le novità che abbiamo annunciato, però abbiamo la possibilità di lavorarci in futuro grazie a questa novità hardware. Senti, una cosa che spesso gli ascoltatori mi chiedono e quando mi scrivono, è uno dei punti che viene sollevato, è: ma che dati raccoglie Amazon? E altri dicono: Amazon è interessata a raccogliere i dati, ci fa comprare questi strumenti molto belli, affascinanti, divertenti da utilizzare, ma poi l'obiettivo è raccogliere dati. No, guarda, il tema della privacy per noi è centrale, e non sono i dati il nostro interesse. Il nostro interesse è l'utilizzo che i clienti fanno dei servizi accessibili tramite Alexa. Ad esempio, un cliente con Alexa ha maggiore possibilità, maggiore interesse ad abbonarsi ad Amazon Music Unlimited, il servizio di musica digitale, piuttosto che con un Echo Show a vedere Prime Video, piuttosto che ascoltare degli audiolibri Audible, piuttosto che cercare prezzi e informazioni su prodotti su Amazon. Quindi di questo non facciamo mistero, il nostro interesse è quello che i clienti abbiano un prodotto che li soddisfa, che lo utilizzino, sapendo che da alcuni di questi utilizzi riusciremo a trarre poi un beneficio economico. Quindi parto da questo, perché secondo me, chiarendo la nostra finalità, si chiarisce forse meglio quel dubbio. Per quanto riguarda i dati, noi elaboriamo i dati che servono per fornire una risposta. Quindi il dato principale è poi la mia voce, proprio la frase che io dico ad Alexa. Questa viene mandata nel cloud, viene elaborata per poter capire che cosa ho detto, molto semplicemente, ed elaborarmi una risposta. Ovviamente ci sono dei dati aggiuntivi che permettono di avere un contesto, quindi se io dovessi chiedere che tempo fa, ecco che il dato dell'indirizzo del mio dispositivo di nuovo mi serve per elaborare una risposta opportuna. Però questa è la finalità della gestione del dato. Ti faccio un'ultima domanda, che è un'altra curiosità che a volte mi chiedono. Alexa riconosce le voci, quindi in una famiglia possiamo registrare diversi tipi di voci, e magari se io faccio una domanda, lei capisce che sono io e non un'altra persona? Sì, è possibile registrare dei profili vocali, bisogna ovviamente scegliere di farlo, c'è una piccola procedura in cui si insegna ad Alexa la propria voce ripetendo delle frasi che lei ci suggerisce, e una volta fatto questo ci sono delle personalizzazioni. Ad esempio, se io chiedo metti della musica, riconoscendo la mia voce, parte da una personalizzazione sulla mia abitudine d'ascolto che può essere diversa rispetto a quella di un altro membro della famiglia, piuttosto che io personalmente trovo molto utile il fatto che abbiamo associato ad Alexa sia la mia rubrica che quella di mia moglie, quando io dico chiama mia mamma e se lo dice mia moglie invece chiama mia suocera, e quindi queste personalizzazioni sono effettivamente utili. Peraltro con la nuova Fire TV Stick, che è il prodotto per vedere film in streaming, avremo la possibilità di avere diversi profili e quindi le personalizzazioni dei contenuti video per i diversi membri della famiglia, e sarà possibile dire a Fire TV Stick passa al mio profilo, e riconoscendo appunto la voce mi porterà sul profilo della persona che ha fatto la richiesta. Quindi c'è questa possibilità e pensiamo sempre a nuove situazioni in cui può essere utile. Grazie a Gianmaria Visconti per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Come sempre ricordiamo di non affidare completamente la vostra casa, soprattutto alcune particolari e sensibili attività della casa, oppure che ne so, il portone principale, il cancello, alcune cose insomma piuttosto sensibili, completamente questi assistenti virtuali. Noi preferiamo, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, soluzioni o open source che magari richiedono un po' di competenze, magari uno specialista in questo campo, oppure soluzioni di altre aziende che non prevedono un account su internet. Poi potete aggiungere tranquillamente questi assistenti virtuali, Alexa, Google, i sistemi di Apple, e abbiamo finito, diciamo. Beh, poi sostanzialmente sul mercato ci sono Alexa e Google con tante soluzioni e anche tante possibilità di interconnessione con altri strumenti. Aggiungete tranquillamente e utilizzate questi strumenti se li ritenete utili, se ritenete utile interagire con una macchina, parlare con una macchina per avere risposte o per comandare cose, che ne so, voglio sentire una canzone, cambia canale, accendi le luci, eccetera eccetera. Però all'interno di una smart home noi pensiamo che sia molto più saggio avere un sistema che non richieda un account, che non richieda internet, cioè che possa funzionare, far funzionare la casa anche nel momento in cui ad esempio non ci fosse internet. Questa è una cosa molto molto importante. Sopra questo sistema, questa soluzione, ci potete inserire anche questo tipo di soluzioni. Il tema della smart home è un tema estremamente bello, affascinante, ma devo dire ancora oggi molto complesso, molto complicato. Cioè, se si vuole andare un po' oltre alle cose un po' più semplici rispetto a appunto accendi la luce, spegni la luce, che uno dice vabbè, ma usa il, come dire, il tasto, no? L'interruttore. Ecco, devo dire, se uno va insomma, delle cose un po' più complicate, non è alla portata di tutti, ed è per questo che stanno nascendo lentamente delle persone che sono competenti in questo settore. Devo dire competenti perché sono forse più le competenze IT informatiche che quelle elettriche. È più facile che uno che abbia esperienza di IT si trasformi in uno specialista di smart home che un elettricista. Poi ovviamente ci sono elettricisti bravi che lo hanno fatto e hanno fatto questo salto. Dunque concludiamo questa puntata di 2024, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ringrazio tutti gli under 30, avevo fatto un appello a scrivermi se avete meno di 30 anni, perché penso che sia importante che chi è giovane, che magari ha la mente più fresca rispetto a chi ha qualche anno in più, prenda spunto da quello che diciamo, da quello che dicono i nostri esperti a 2024, per poi creare, pensare, progettare anche cose per il futuro. Non ho risposto a tutti, ma cercherò di rispondere a tutti. Grazie ancora. Continuate a scrivere sia attraverso la email, sia attraverso Facebook, Twitter o LinkedIn. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba.